sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. 14.30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Liverpool sì, è stato molto influenzato da questo infortunio, certo, che l'ha portato via 6 settimane, ma lui è un combattente, sta lì, sa quello che devo fare, credo che la società l'ha dichiarato incedibile, quindi e poi vedremo anche con lui a luglio quello che succederà. Aib gioca di suola, va dentro benissimo per Lallana, cerca Balotelli, Mario Balotelli, il primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool, è un gol importantissimo. Il triplice fischio di Daoud, ha vinto 3-2 il Liverpool ed è stato protagonista Mario Balotelli. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione. Non mi sembra il caso di far suonare le fanfare, perché ci sono volute 25 giornate e 83 minuti per vedere Balotelli segnare il primo gol in Premier League, gol che ha dato la vittoria nella partita di ieri sera, anticipo al Liverpool sul Tottenham, 3-2, dedicato a chi ha sempre creduto in me. Vabbè, non mi sembra ci sia molto altro. Pierluigi Pardo, buongiorno. Praticamente la dedichiamo solo a te, perché diciamo la verità, sei l'unico che ci credeva ancora, quindi potrei dire io ho smesso. Dedicated to my friend Carlo. No, però come guarda, un gol dopo così tanto tempo per qualsiasi attaccante è uno shock positivo, sì. Guarda quello che sta succedendo per esempio a Mario Gomez a Firenze, no? E quindi non si può escludere che possa avere un effetto rigenerante. Sappiamo che per gli attaccanti più che per altri giocatori è importante rompere il ghiaccio, perché il gol è qualcosa di che ha un valore traumaturgico mostruoso. Detto questo, poi io non credo che avremo il giocatore fatto, finito, compiuto, maturo che speravamo di riuscire ad avere, almeno non in tempi brevi, quindi questo gol, quell'effetto lì secondo me non lo fa. Però magari può diventare una. Beh, vediamo, intanto se lo fanno giocare, perché è stato infortunato, si è fatto dentro fuori tra campo e panchina. Chi sta parlando? Però insomma, guarda, questo vale per tutti gli attaccanti, soprattutto per uno umorale come Balotelli. Questo gol è un gol che pesa tantissimo, sì. E può avere un effetto sicuramente. Poi diventare, ripeto, un giocatore sul quale poter contare, che poi era la grande scommessa del Milan, quando arrivò al Milan, devo dire che nei primi mesi sembrava anche poterlo essere, c'era l'idea che potesse diventare finalmente un giocatore da 30-35 partite a campionato, da 15-20 gol, un giocatore sul quale puoi fare affidamento. Invece Balotelli, lo sappiamo, è lampi sempre più isolati, purtroppo sempre più, sì, rari, e poi grandi cadute, sì. Questo... secondo me non capisci di calcio. Grazie. 800 24 00 24, il numero verde. Signor Marocchi. Destinatario di questa ben nota frecciata. Allora, c'è stato un altro ritorno, non al gol, ci vorrà un sacco di tempo purtroppo, ma almeno alla parola, per Giuseppe Rossi. Non voglio fissare nessuna data per il rientro, perché poi si fanno le corse magari, ecco, per arrivare a quella data lì, quindi io la voglio prendere con tanta tranquillità, voglio essere al 100% per quando poi tornerò in campo. Beh, almeno risentiamo la voce, per i gol ci vorrà un sacco di tempo, Pierluigi. Dicevamo, ha fissato una data, 29 di aprile, c'è la partita con la Juventus, mi piacerebbe esserci. Saremo nettamente a fine stagione, si parlava di marzo, si va un po' più in là per Pepito. Ma sì, ma adesso a questo punto sinceramente, soprattutto in un momento come questo nel quale improvvisamente la Fiorentina ha abbondanza di attaccanti, quindi anche alla Fiorentina diciamo in questo momento serve a poco la priorità, mai come in questo momento per lui e anche per la Fiorentina, è provare a recuperare fisicamente il giocatore. Qui ci sono mille incognite, è inutile nasconderselo, perché stiamo parlando di uno che è fermo da 2 anni, stiamo parlando di un ragazzo con una sfiga addosso mostruosa e con una serie di infortuni che si sono accavallati uno dopo l'altro, anche di operazioni sbagliate purtroppo nel passato, e quindi poi alla fine che dobbiamo dire, è più no che sì oggi pensare che possa tornare stabilmente a giocare senza infortuni, purtroppo è più no che sì. Ce lo auguriamo di tutto cuore, e lui sta lavorando, ragazzo positivo, bravissimo ragazzo, uno che quando stava bene fisicamente faceva la differenza, e poi non è che parliamo di una vita fa, perché poi no, anche chiaro, però è fuori da 2 anni, cioè lì poi ci saranno componenti fisiche, psicologiche, ce ne sono tanti di incognite. Prima dell'infortunio con Livorno, in quei 6 mesi aveva fatto molto bene, quindi insomma glielo auguriamo di tutto cuore, però la strada è lunga e mai come in questo momento secondo me non ci deve essere nessuna fretta, perché la stessa Fiorentina per la prima volta negli ultimi 2 anni ha abbondanza di alternative, quindi può permettersi di aspettarlo senza forzare i tempi. Sì, questo sì. Va bene, allora ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24, numero verde. Intanto c'è Real, così alla spicciolata, Real che sta pensando di dare alla Juventus i 30 milioni previsti dal contratto per riprendersi Morata. A me sembrano tanti. Scopriamo che il Parma ne ha 96 di milioni di debiti, e poi parlerà il nuovo presidente tra una ventina di minuti. C'è Lotito che vuole il ritorno al sorteggio integrale perché gli arbitri ce l'hanno con me. Insomma, ci sono tutte queste cose ed altre ancora. 800 24 00 24, strade. Se io ti do una data, il 29 aprile, che c'è proprio la sfida con la Juventus. L'ho già vista quella data lì, però senza fare corse magari, ecco, di giocare una partita così prestigiosa, però devo prima pensare al lavoro che faccio in campo e poi vediamo per le partite. Tutti convocati. Dunque, dopo Balotelli, dopo Pepito Rossi che rientrerà chissà quando, allora voglio segnalarvi una cosa. In epoca di magliette bizzarre, ne abbiamo viste letteralmente di tutti i colori, anche obbrobriosi, cioè l'Udinese che ha fatto invece una cosa che il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha definito iniziativa straordinaria e assist geniale a tutto il mondo calcistico. Cioè, non so se lo sai Pierluigi, c'è questo Dacia Sponsor Day The Split, per cui l'Udinese si vestirà con i colori di squadre di altri sport, rugby, hockey, tiro con l'arco, badminton, softball, magari football americano, da decidere a fine marzo, però vedremo l'Udinese vestita in modo strano, con colori di quelli che chiamiamo sport minori. Andrea Carnevale, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Letteralmente di tutti i colori, mi piace molto, sono molto curioso. Carlo, la battuta è troppo semplice, siamo a Carnevale, abbiamo al telefono Andrea Carnevale, si vestirà di tutti i colori l'Udinese, mi sembra che tutto torni. Tutto torna. Siamo in tema. Però è una bella cosa, ce la spieghi Andrea? Cosa? Scusi? Insomma, è il vostro legame con altri sport, è la vostra passione sportiva che si esprime anche attraverso la maglia, che sappiamo è qualcosa di sacro, no? Però è anche bello che possa ospitare questa iniziativa. Beh, innanzitutto sì, la maglia è qualcosa di speciale, i colori dell'Udinese a me piacciono tantissimo, anche perché insomma ci ho giocato con questi colori, che quindi continua ancora a piacere, perché insomma sono iniziative a mio avviso molto molto belle. Sì, poi soprattutto dividerla con quelli che chiamano in Italia sport minori e molti si offendono, sarà divertente e curioso vedere Udinese vestita così. Andrea Carnevale, che è capo degli osservatori dell'Udinese, sì. Allora mi sembra che in questa stagione, che al momento direi positiva, no Andrea, correggimi se sbaglio. No, assolutamente sono d'accordissimo, nel senso che abbiamo fatto una prima parte abbastanza positiva, anche se a mio avviso potevamo tenere qualche punticino in più, secondo me. Sì. Abbiamo preso un allenatore nuovo, Stramaccioni, quindi insomma il passaggio tra Guidolin e Stramaccioni è stato diverso, nel senso che poi ogni allenatore insomma i suoi metodi di lavoro, il suo schema, i suoi giocatori, quindi insomma abbiamo preso un allenatore estremamente giovane però molto molto preparato, quindi sì, siamo contenti di averlo portato qui, Andrea Stramaccioni, perché per quanto riguarda insomma quello che ha fatto fino adesso, a mio avviso l'ha fatto molto molto bene. Secondo me potevamo dare qualcosa in più, però ci accontentiamo perché noi siamo l'Udinese e il primo obiettivo è quello della salvezza. Abbiamo 28 punti, quindi insomma tutto sommato una prima parte di campionato positiva. Sì, con Inter e Milan più o meno, insomma, che non hanno di più. Pier, che ti piace? No, dimmi. No, volevo che ci parlassi un po' di Strama, nel senso che Stramaccioni ha avuto fino ad oggi una parabola abbastanza singolare, nel senso che ai tempi delle giovanili della Roma e poi dell'Inter era considerato un vero e proprio fenomeno. Primi mesi benissimo con l'Inter, poi un crollo, dobbiamo dirlo, catastrofico nella seconda parte della stagione, anche per colpa di mille infortuni. E ci dai una sintesi del lavoro di Stramaccioni fino adesso, della sua filosofia di gioco? Io l'ho vista un po' di volte Udinese, però insomma, magari gli amici da casa no. Insomma, sulla filosofia di questo tecnico. Ma guarda, innanzitutto è uno molto preparato, l'ho trovato un ragazzo molto umile, e poi a mio avviso ha scelto, penso, la società migliore, nel senso che l'Udinese non solamente giocatori giovani, ma bensì anche un allenatore molto intelligente, molto preparato, anche sul piano diciamo sia tecnico che tattico. Lo vedo estremamente molto positivo questo. È chiaro che poi bisogna considerare anche la sua giovane età, insomma solamente 38 anni, fino a 3 anni fa faceva solamente il settore giovanile, poi ha avuto un'esperienza all'Inter, diciamo, io non vorrei dire fallimentare, assolutamente no, perché come ricordavi anche tu aveva un'ottima squadra, anche se giocatori insomma un po' invecchiati, però tantissimi infortuni. La prima parte l'aveva fatto molto bene, poi nella seconda parte effettivamente forse l'Inter no, non ha fatto molto benissimo, però a mio avviso a lui gli servono insomma le partite, gli serve un po' di esperienza ancora, lo dico io perché sono giovane anch'io, sono 13 anni che sono qui all'Udinese, ho avuto a che fare con tantissimi allenatori, da Spalletti a Guidolin, insomma a tant'altri, che poi sono andati anche nelle grandi squadre, anche lo stesso Zaccheroni, insomma l'Udinese ha avuto sempre degli ottimi allenatori. A Andrea gli manca un po' di esperienza diciamo fatta sul campo, cioè perché chiaramente un conto allenare la Primera, un conto allenare i Pulcini o gli allievi, un conto allenare la Serie A, però secondo me ha tutte le qualità diciamo sia tecniche che morali, perché è anche un ragazzo molto umile e secondo me lui ha trovato la squadra migliore, la società migliore per poter crescere qui a Udine. Insomma, oltre ai giocatori giovani vi siete messi a arrangiare anche gli allenatori giovani adesso, Andrea. Esatto. C'è un dato curioso: l'Udinese non vince al Friuli dalla fine di ottobre, il 2-0 all'Atalanta. In questo pesa la ricostruzione dello stadio, che è un cantiere, lo sappiamo, l'Udinese si sta costruendo il suo stadio, ma conta questo? Cioè può essere un dato che incide? Guarda, io dico di sì, perché insomma io ho avuto la fortuna di giocare negli stadi tipo Napoli e anche Roma, però anche quando io giocavo allora qui, parlo di nell'84-85, io giocavo davanti a 40.000 persone, perché c'era anche un certo Zico, insomma sì, c'era un certo Causio, Virdis, io, Gerolin, Mauro, insomma, e quindi quando arrivavano insomma le piccole squadre o le grandi squadre, la differenza lo faceva il pubblico, cioè 40.000 tifosi. È vero che uno stadio, diciamo, quello che è stato buttato giù, veramente vecchio, sembra veramente un carcere, distante, c'è la pista, vecchio, e quindi chiaramente adesso non c'è più il pubblico di una volta. Al Friuli fino a un anno fa c'erano solamente 13.000 spettatori, mettici la pista insomma intorno, lo stadio lontano, il tempo che non sempre clemente diciamo con questa città qui, è chiaro che poi il pubblico, insomma, io penso quando un giocatore scende in campo con 40.000 spettatori, insomma, si sentono. Con 13.000 effettivamente sembra a volte di fare un amichevole. Lo confesso, perché qui effettivamente con lo stadio in costruzione, chiaramente quando vengono le piccole squadre veramente sembra di fare un amichevole. Sì, quindi io penso che la ciliegina della torta sicuramente sarà da luglio prossimo, quando lo stadio sarà pronto, e quindi lì secondo me il pubblico si sentirà anche con 13.000 spettatori. Sì. Pierluigi, ti è capitato di recente di commentare l'Udinese? Comunque questa stagione ti è capitato di commentarla? Ad esempio ricordo che eri a Udine per la famosa partita con la Roma. La prossima grande cosa nell'Udinese sembra Allan. Ti piace questo giocatore? A me piacerà matti Allan, tra l'altro mi piacerà parecchio. Adesso se ne parla moltissimo perché ci stanno una serie di prestazioni, diciamo, di quelle che vanno, no? Perché poi sono delle partite che pesano più delle altre, più di altre dal punto di vista mediatico. A me sembra che abbia una continuità e abbia due fasi veramente eccellenti, quindi qualità e recupero del pallone, però anche, non so che ne pensa Andrea. No, sono d'accordo Pierluigi, nel senso, noi abbiamo deciso, vi dico anche perché è brava questa società, è forte, siamo uniti, insomma. Io sono responsabile dell'area tecnica, quindi insomma spesso parlo col mio presidente Gino Pozzo. L'anno scorso ha fatto un campionato, diciamo, buono, però si vedeva il ragazzo che aveva ancora qualcosa da dare, un ragazzo che secondo me quest'anno sta esplodendo, e io penso che abbiamo fatto la scelta migliore, perché già l'anno scorso Allan aveva avuto delle richieste, specialmente in Russia, lo confesso, però poi abbiamo deciso attorno al tavolo di farlo rimanere un altro anno. Secondo me abbiamo fatto la cosa migliore, perché quello che sta dimostrando quest'anno Allan, la partita di domenica contro il Napoli, la partita con la Juventus, che effettivamente ha tenuto a bada un fenomeno come Pogba, insomma, e Allan sembrava veramente un giocatore straordinario. Ancora tanti margini di miglioramento questo ragazzo qui. Sono veramente, diciamo, orgoglioso di averlo scelto, perché è un ragazzo, oltretutto, non solo diciamo bravo sul campo, ma anche nella vita. Grazie Andrea. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, ciao Andrea Carnevale. Ciao. C'è un genuano che mi scrive una cosa, vuoi che te la legga? Allora, vai. L'Udinese giocherà con le maglie di altri sport, sai che novità? La Samp gioca sempre con quella da ciclisti. Allora, lì è tifo, Bieco tifo. Maglia da Sampdoria, dai, una delle più belle del calcio. Ma guarda, mondiale. A Genova ci sono due maglie che sono sinceramente una più bella dell'altra, non esatto. Voglio fare il Stevo Cristiano. No, no, ma non riesco a scegliere nemmeno io. La originalità, appunto, è unica dal punto di vista dell'originalità, perché non ci sono altre squadre che giocano così, quindi è anche normale che ci sia da parte dei cugini la voglia di prenderli in giro, ma in realtà la maglia bellissima, molto originale, la maglia del Genoa, una maglia storica, insomma, la prima squadra d'Italia, come amano ripetere i tifosi del Genoa, i primi ad arrivare, gli ultimi ad andarsene, nel senso che la passione è clamorosa, e devo dire che Genoa è abbastanza singolare. Genoa è una città, beh, che io amo molto per mille motivi, ma calcisticamente è una città speciale, perché non è una città enorme, eppure ha due squadre, cioè ha la dimensione di altre città come Bologna, come Firenze, come Palermo, però c'è un derby, è un derby vero. Sì, è soprattutto un derby storico, perché anche Verona, non ha quel tipo di storia, voglio dire. Però non ha quel tipo di storia, appunto. Quindi no, Genova lo sappiamo bene. Al di là del mio amore proprio per la città, ma insomma, vedi una quantità di simboli calcistici continuamente, dai caschi dei motorini, dei ragazzi. Sì. Una città nella quale la partecipazione è altissima, quindi è bellissimo. Quindi ci fermiamo un attimo. Arriva al derby e invitiamo i genuani a rispondere alla storia della maglia dei ciclisti, se ne hanno voglia, ma tranquilli. 800240024, numero verde, borsa, poi abbiamo Massimo da Biella, Silvio da provincia di Ravenna. Pardo, sei un grande, però sei un po' paraculo, te lo dico io. Tutti convocati. A proposito di iniziative editoriali, da domani cominciamo la collezione del giovedì, almeno io la comincio, la collezione del giovedì del Sole 24 Ore col giornale della famiglia, per spiegare l'economia a tutti. Domani Altalena dei prezzi, va a finire che ci capisco qualcosa, perfino io. Massimo Biella, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dargli i miei tre brevi considerazioni. Una su Balotelli: se ha segnato il primo gol al 10 di febbraio, probabilmente, perché qualche colpa ce l'ha anche lui nelle sue varie demotivazioni che avrà avuto nei singoli allenamenti, che avrà portato il suo allenatore a metterlo vuoi in panchina, vuoi in tribuna, vuoi chissà dove, ma speriamo noi tutti italiani che con questo gol di ieri sera abbia un attimino più di motivazioni magari da oggi in poi, e vederlo chissà farne chissà quanti altri di questi gol. Punto 2, su Lazio-Genoa ho trovato assolutamente avvilente la protesta del fine gara del signor Pioli all'indirizzo del signor Gervasoni. Sì. Lui disse addirittura: mi farò sentire con il mio presidente perché si rivolga nelle sedi opportune, eccetera eccetera. Sì. Io dico, oggettivamente il signor Gervasoni nelle decisioni più cruciali che ha dovuto avere nell'intercorso della gara non ne ha sbagliata una che una, che poi tutti siano concordi nell'abolizione del pallo da ultimo uomo con conseguenze. Quello è una questione regolamentare, passiamo alla 3. Numero 3 su Giuseppe Rossi: non è possibile che nessuno gli possa dire, come ha detto Pardo prima: caro ragazzo, sei stato di una sfiga, di una sfiga nei tuoi gravi infortuni. Mettiti il cuore in pace e dedicati al golf, ma come si fa a rischiare ancora una gamba, una questione fisica ad un giocatore che ormai non può fare più nulla in quei Ma no, ma non sarei così drastico su Giuseppe Rossi, Pierluigi. No, vediamo. Su Gervasoni Lotito si è lamentato, l'abbiamo detto, chiedendo il sorteggio integrale, e magari l'ascoltatore non ha tutti i torti. Giuseppe Rossi non sarei così drastico. No, neanche io sarei così drastico. Io penso che Giuseppe Rossi abbia, innanzitutto, che ogni persona abbia il diritto di fare quello che vuole nella vita, e quindi è giusto che venga reso edotto sui rischi che può correre dal punto di vista fisico, sulle possibilità di recupero, che gli venga fatta una diagnosi vera e veritiera, e poi è lui che deve decidere. Se trova la motivazione, come immagino, se la sua vita è comunque legata al calcio, se la voglia di tornare è così grande, ma perché non deve provarci? Certo, ci saranno dei rischi, è una valutazione che può fare soltanto lui, evidentemente. Ma ti ricordi un altro grande fiorentino, no? Roberto Baggio, quando aveva 20 anni e giocava nel Vicenza, tutti gli dicevano: è meglio che pensi a un altro sport dopo che si era frantumato un ginocchio. Poi fece la carriera che fece, no? Appunto, poi voglio dire, insomma, ma qui è un fatto di, esattamente come nessuno può imporre a un calciatore di giocare, allo stesso modo nessuno può imporre a un calciatore di non giocare. È talmente una decisione legata alla libertà dell'uomo, non del professionista, dell'uomo che deve decidere se ha voglia anche di prendersi dei rischi. Questo mi sembra il tema, il tema fondamentale. E sul resto, sulla regola dell'ultimo uomo sono d'accordissimo, nel senso che lì la chiave è esattamente quella, siamo di fronte a una fattispecie, ma l'abbiamo detto mille volte, l'ha ripetuto anche Cesari l'altro giorno, a una punizione eccessiva, perché rigore per espulsione di fatto significa spezzare in due una partita, un singolo episodio, e tante volte anche su delle situazioni al limite, perché se si applica il regolamento in maniera, diciamo, un po' larga, poi ma l'arbitro è mero esecutore materiale di una norma regolamentare che siamo tutti d'accordo andrebbe modificata. Silvio, provincia di Ravenna, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Sono Silvio, chiamo dalla provincia di Rimini, non di Ravenna. Rimini, siamo bene. Va benissimo, c'è il sole, si sta bene. Va bene, ciao Pier, sei simpaticissimo. Ciao. Volevo fare i complimenti a Carlo perché ancora non ho capito che squadra ha nel cuore, mentre qualcun altro giornalista è molto evidente. Cioè, il problema è che non l'ho capito ancora nemmeno io. Certo, non è che io l'ho capito. Io Carlo volevo parlare di Milan. Sì. Innanzitutto io mi piace molto l'equilibrio, quindi stimo gli allenatori come Ancelotti, come Allegri, però sono milanista. No, sono milanista. Mi piace che Real Madrid ti fonchi a Real, però sono milanista. Io darei delle attenuanti quest'anno al Milan, perché prima di tutto l'anno scorso è arrivato ottavo. Poi c'è il progetto stadio, che non è male, che se a marzo, diciamo, approvano più piano, oltre alla Juve Udinese, siamo in tre in Italia. E poi volevo dirti anche la campagna acquisti, italianizzata, mi spiego bene, i vari Antonelli, Destro, Cerci, a mio avviso col tempo di prospettiva potrebbero fare una buona squadra. E ti volevo fare una domanda. Siccome quest'anno Inzaghi ha fatto i suoi errori, però ha avuto anche degli infortuni a catena, mi spiego bene. Un giocatore per essere in forma deve giocare 4-5 volte consecutive per entrare, diciamo, al 90-100% di forma, mentre Abate, De Sciglia non c'è mai stato. E non ci sarà per un bel pezzo ancora, che l'ha detto lui. La porta si è rotto, Montolivo veniva dell'infortunio, De Jong una volta sì, due volte no, e Sharawi lo sappiamo tutto. Se io ti volevo fare una provocazione, la formazione domenica che ha giocato con la Juve, che ha assicurato però se al posto di Montari e Siena, a mio avviso c'erano due qualsiasi dell'Empoli e del Cesena, facevamo meglio, ma se giocava, ascolta, Abate, Zapata, Mexesso, Boniere, De Siglio, Montolivo, De Jong, Bonaventura, El Shaarawy col 4-2-3-1, Menez e Destro, io penso che facevano una bella figura. Ma non abbiamo... Silvio, non abbiamo le prove, le attenuanti. Sento parlare sempre degli infortunati della Roma. No, ma gli infortunati ce li hanno tutti, ne ha avuti un sacco. Sono attenuanti generiche, Pierluigi? Ma assolutamente, perché gli infortunati non è che gli infortuni si dividono essenzialmente in due categorie filosofiche: gli infortuni muscolari e gli infortuni traumatici. Sugli infortuni traumatici torniamo a quel discorso che facevamo prima su Giuseppe Rossi, cioè sulla sfiga. Ci sono delle cose nella vita che ti succedono, amen. Però gli infortuni muscolari, quando sono tanti, quindi quando sono statisticamente rilevanti, chiaramente sono di responsabilità dei preparatori, quindi si può discutere. Gianni Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Buongiorno. Senta, io vorrei fare una piccola polemica. Ma la prova televisiva esiste solo per quelli che giocano contro la Juve o la Roma, o esiste per tutti? Ma il giudice quando... No, esiste, filmati, no, no, esiste solo per quelli che giocano. Ieri sera hanno fatto vedere il signor Chiellini. Sì, però se l'arbitro Gianni, però se l'arbitro dice che ha visto la prova televisiva, ma comunque vale, sì, ma la prima che ha detto. Non l'ha visto, perché se no lo ammonivo, lo mandavo fuori. Questo non sappiamo che dire, no, però parte, il problema è che uguale, la gomitata di Tevez. Ho capito. Lo so, però ha il coraggio di fare la conferenza stampa. No, ma comunque Jesus lì. No, ma comunque Gianni, comunque vale la prima che ha detto, no, Pierluigi? Cioè vale solo per le squadre che giocano contro la Juventus e la Roma, per gli altri non vale, ma vale no, quello. Parte che Juventus e Roma, essendo, diciamo, in guerra l'una contro l'altra, se ci fosse un complotto, un disegno, allora sarebbe un disegno pazzo, perché se favorisce una volta una e una volta l'altra. Questo discorso della solidanza, si possono fare mille ragionamenti, e fa parte della storia, della storia, cioè ci può stare, io posso anche immaginarlo senza dolo, che ci possa essere in certi momenti della vita un po' di sudditanza, così come ce l'abbiamo noi. Se io incontro un ragazzo che fa uno stage di 18 anni che mi sta simpatico, o incontro Enrico Mentana, è chiaro che ho un atteggiamento all'inizio diverso, è chiaro però poi che poi un arbitro ha il dovere di comportarsi in un certo modo, di applicare il regolamento. Qui dal punto di vista regolamentare sappiamo che il motivo è quello lì, cioè il fatto che se l'arbitro vede, a quel punto non può scattare la prova televisiva, e come tutte le altre cose dire della vita facciamo affidare. Quindi non c'è moltissimo da dire. Intanto sta parlando Manenti, neopresidente del Parma, che dice che entro domani mattina partiranno i primi bonifici, che puntano a risolvere tutto, che è una corsa contro il tempo, riusciremo a rispettare le scadenze, eccetera eccetera eccetera. Poi se partiranno domani mattina i primi bonifici, ne daremo conto domani. Volevo farti sentire, prima di andare sul traffico e poi avremo, io spero, un grande ospite, volevo farti sentire Zamparini su Dybala, perché sì, siamo alla rottura. Dybala è corrotto, addirittura Zamparini contro la sua star. Non parlo più con Dybala perché è cambiato completamente. Cambiato perché poi gli saltano addosso delle persone esterne, dove naturalmente cercano di coinvolge un ragazzo di 20 anni, un ragazzo di 20 anni naturalmente si fa attrarre da sirene. Si fa sì da sirene, da false informazioni. Dybala ormai in mano purtroppo a quei personaggi che oltre ai procuratori entrano nel calcio per fare soldi, e naturalmente è difficilissimo che rimanga a Palermo un altro anno. Probabilmente se lo augurerebbero loro per portarlo via a 0 euro. È un'altra cosa di buon senso, la stupidità della FIFA, della UEFA e di certi regolamenti che a un certo momento fanno diventare poi un ragazzo così giovane preda di interessi economici. Capito, Pardo? Corrotto, in mano agli agenti, a chissà quale fondo investimento, non è nemmeno più mio, dice Zamparini. No, vabbè, io Zamparini posso anche capire, adesso non so nello specifico cosa sia accaduto, però ci può stare anche questo ragionamento. Il parametro zero in assoluto è un'anomalia, secondo me. Sì, chiaro. Da in poi, cioè l'idea che un calciatore abbia un costo di cartellino, ma che poi questo, che in certi casi è altissimo, ma che questo costo di cartellino se non rinnova si azzeri, poi diventa zero, è paradossale. È abbastanza paradossale, quindi lo sanno i calciatori che in certi momenti possono sfruttare tutto questo come un'arma per ricattare, tra virgolette, le loro società, per avere più forza contrattuale oppure per avere dei contratti da parte della nuova società più alti, perché chiaramente la società risparmia il cartellino e quindi una parte dei soldi che risparmia li dà volentieri al giocatore con un ingaggio più alto. Sicuro, sicuro. Allora ci fermiamo per il traffico e poi torniamo, state con noi, state qui. Io vorrei dire a voi giornalisti, uomini di cultura, cosa sentite di fronte al fatto di dover commentare il campionato più taroccato del mondo? Convocati. Sta parlando sempre Manenti, neopresidente del Parma. Proviamo a sentire una battuta. Che il 16 febbraio non arriverà niente. Però il problema non è il 16 febbraio, il problema è che se arrivasse qualcosina dopo il 16 febbraio, tanto i giocatori, la totalità dei giocatori, la messa in mora non la praticheranno con la società e voi potrete andare avanti. Sarebbe gradita oggi, anche perché fino a questo momento delle notizie, delle prove, delle documentazioni che dovevano essere esibite in questa sede non ce n'è traccia e non credo che ce ne sarà in fine di conferenza stampa, un'ammissione sincera, ovvero abbiamo preso il Parma perché è un'opportunità. Quindi nulla toglie dei liberi cittadini di prenderla. Ci stiamo sforzando, vedremo cosa possiamo fare, però non ricominciare con la solita litania del 16 che poi, insomma, il 16 non arriva a niente, ditelo. Domanda allora, più lunga della storia. È così informato su tutto, potrei anche evitare di dargli la risposta. Il 16 è importante perché il pagamento dell'F24 non dà ulteriori punti di penalizzazione, ok? Lei spera di salvarsi? Io non spero di salvarsi. Allora, a prescindere che finché la matematica non condanna, penso che uno ha la speranza, perché sennò sarebbe neanche inutile essere qua. L'ha detto lei nella domanda prima, per l'opportunità, per cui... Come la vedi, Pier? La speranza è l'ultima a morire. Come la... La vedo una bella battaglia, La vedo complessa, insomma, ha comprato un euro, ma chiaramente qui il costo non è l'euro di acquisto della società, ma i debiti che vanno ripianati, ma, insomma, diciamo che un po' di scetticismo c'è, ho letto un po' di giornali e non è che proprio sembra che ci sia la società più liquida e più forte del mondo, però magari ci sbagliamo, io insomma. Sì, però io continuo a leggere cifre crescenti, l'ultima che abbiamo letto oggi su tutti i giornali è 96 milioni di euro, che sono zacche sordi, cioè, diciamoci la verità. Ne ha parlato anche Donadoni, mi pare, del Parma, della nuova società. Adesso staremo a vedere quello che succederà, però domani non andrà in campo certamente la nuova società, andremo in campo noi. E quindi noi dobbiamo essere bravi a fare il risultato. Questo Donadoni. Senti, ma tornando allo Tito, invece, cosa pensi di questa sua uscita? Ognuno dice la sua, no? C'è Galliani con le linee, c'è lo Tito con il sorteggio integrale, c'è chi ricusa gli arbitri. Ormai fa la sua partita, dai, non è... Io farei scegliere gli arbitri dalle società. Chi gioca in casa si sceglie l'arbitro. Forse è divertente. Oppure chi gioca fuori. fuori si sceglie l'arbitro. Oppure chi gioca fuori si sceglie l'arbitro. Per compensare. No, ma insomma, niente di nuovo sotto il sole. Sappiamo che ci sono schermaglie, ci sono anche dei tentativi di condizionamento legittimi dal punto di vista mediatico, nel senso che tutto ciò che riguarda il calcio si lega al tema della comunicazione. La comunicazione serve appunto per influenzare i comportamenti degli altri, quindi lo Tito esterna perché magari vuole più attenzione, come si dice in gergo, no? Non dirà mai che vuole dei favori arbitrali, perché questo chiaramente sarebbe contrario allo spirito del gioco, ma vuole più rispetto, si dice, no, fa più rispetto. Fa la sua partita, non è il primo e non sarà l'ultimo. Non è così rilevante, ma è legittimo. Francesco Vibo Valenzia, buongiorno. Sì, buongiorno. La mi dica. Io volevo parlare della situazione del Milan e dire che effettivamente è una cosa, io direi alquanto vergognosa, no? Farci credere che questa è una squadra che era stata organizzata per poter prendere il terzo posto, arrivare terza, andare in Champions. Cioè, voglio dire, ormai siamo tutti quanti, vediamo, siamo informati di tutto quello che succede. Non ci possono raccontare che questa è una squadra che può arrivare terza. Sappiamo tutti che se va bene, proprio se va bene, riusciamo a salvarci. Vabbè, adesso, tra arrivare terza e salvarci c'è una discreta via di mezzo. Questa squadra non arriverà terza, anche perché mi sembra che, insomma, non a meno di crolli di tutte le altre contendenti, non può crollarne una, massimo due, facciamo tre, ma quelle davanti, insomma, non credo si arrenderanno. E sì, poi devo dire anche che è una distanza troppo. Del Milan di quest'anno è in qualche modo una smentita di quella vecchia leggenda metropolitana, che in qualche caso ha funzionato, per carità. Cioè, che il fatto di non avere le coppe necessariamente migliori risultati in campo. Non è così, stiamo vedendo che non è assolutamente così, per cui io spero che tutte le protagoniste, soprattutto quelle più blasonate come Milan e Inter, faranno fino in fondo la gara per prendersi un posto in Europa League, se non avranno la possibilità, e non credo che ce l'avranno, di poter puntare al terzo posto, perché comunque io credo che da un punto di vista di ranking, di visibilità anche internazionale dei giocatori, di autostima, comunque sia importante il vecchio bluff, appunto quello di chi ti dice che non fai, a quel punto è meglio. Che succede? Mario, provincia di Mario da Pavia, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, ciao Pierluigi. Ciao. No, io volevo intervenire perché ho sentito prima di finire fallimentare la stagione di Stramaccioni all'Inter, ma secondo me non è assolutamente vero, nel senso che lui aveva un Inter vecchissima e fino a Natale eravamo secondi in classifica. Poi gli hanno messo fuori Ross Snyder, perché a gennaio gli hanno messo fuori Ross Snyder, e poi Cassano ha fatto la sua cassonata, e da marzo, da febbraio a maggio ha giocato con Rocchi Alvarez di punta, insomma, di più penso che non poteva fare, sì, francamente. Resta, mi sembra, un nono posto, no? Se non ricordo male. Sì, però insomma, quei giocatori che aveva, giocava con Jonathan, Alvarez, Rocchi... Quindi tu dici la stagione attuale sta rivalutando anche quella di assolutamente sì, anche perché si era preso l'Inter da Ranieri e Gasperini e l'aveva portato in Europa mentre lottavamo per la Serie B, insomma, sì. Secondo me è tutt'altro che stupido, ecco. No, tutt'altro che stupido, non ci sono dubbi. È anche un ragazzo di estrema intelligenza e di estrema simpatia. È anche un eccellente allenatore. Probabilmente quella che gli mancava in una situazione così difficile era la voce, esperienza, ma l'ha detto anche prima Carnevale, no, Pier? Assolutamente. Quella sintesi lì è perfetta, al di là di mille retoriche, di mille frasi fatte, però quella sia la chiave. Stefano Trieste, buongiorno. Buongiorno, in questo momento sono in un aeroporto, quindi non sono nella mia città. Quale? A Venezia, sto andando Venezia. A Londra per lavoro. Sì. Allora, no, l'unica cosa che volevo fare una considerazione su quello che è la professionalità del mondo del calcio. Ho sentito, vi stavo ascoltando perché ero in ritardo, quindi ascoltavo via telefono la vostra radio, e sentivo parlare di Giampiero Manenti, detto Pietro. Sì. Persona nel mondo finanziario conosciuto, straconosciuto, per essere... Non viene definito un truffatore, ma comunque un millantatore. Noi purtroppo ne abbiamo avute esperienze con tutta una serie di operazioni finanziarie. Io opero nel settore finanziario, sono cotitolare in 4 banche private. E mi chiedo, com'è possibile che in un mondo che si definisce professionista e professionale certi personaggi con scopi che non si riescono a capire possano venire accettati, conferenze stampa, presentazioni, pagheremo i debiti, quando due giorni fa cercava 50.000 euro per comprare una fiduzione proprio per l'acquisto del Parma. Guardi, io questo non glielo so dire. Dice domani partono i primi bonifici, lo scopriremo presto se è un bluff oppure no. Pier, andiamo? Andiamo. Ok. 14:54, 32 secondi, ci sentiamo dopo. Ciao Pierluigi, sentiamo con te domani. Sì. Noi invece ci sentiamo dopo il giornale radio, torniamo insieme, avremo Leo Turrini, poi un'altra sorpresa. E beh, aspettateci, stiamo qui. Signori miei, una cosa che voglio dirvi, è agghiacciante quello che mi indagano. Un tecnico tattico molto passionale come il signor Antonio Conte. Il signor Antonio Conte, che è indagato per brodo sportivo. Ho paura, signori miei. Oggi può capitare a me, ma domani può capitare di nuovo a me. Ma sempre a me mi capita. Sono antipatico perché frodo. Chapeau. Tutti convocati. Quando gli italiani sanno che c'è delle cose belle, pulite, utili, sane al paese, c'è una grandissima disponibilità all'impegno. Questo impegno bisogna farlo con una grande unità di intenti sulle cose da fare che sono fondamentali soprattutto per le nuove generazioni. Beh, unità di intenti vediamo. Comunque, questa era Montezemolo, l'avrete riconosciuto. Io sono contento solo se faccio due chiacchiere con il mio amico Leo Turrini. Ciao Leo. Buongiorno maestro, come andiamo? Molto bene. Io direi che dobbiamo scomodare Vulvia. Tu te la ricordi Vulvia? Rinfrescami la memoria, Leo. Era quel personaggio interpretato da Corrado Guzzanti che faceva Re-Educational Channel, no? Sì, sì, e sì. Quando parlava di Piero e Alberto Angela, ammiccava sempre dicendo è il figlio, no? Allora io vorrei chiarire a beneficio di tutti gli italiani. Sì. Di Barisoni, di Focus Economia, sì. Che il Montezemolo che ci guiderà verso Roma 2024 è il figlio di quello d'Italia 90, è il figlio. Perché tutta la stampa estera se lo sta chiedendo, siccome ci sono di mezzo quattro decenni, no? Sì. Più o meno, sì. Tutti dicono: ma non può essere lo stesso che guidò l'organizzazione d'Italia 90. Soprattutto quella citata, faccia lì e con tutti quei capelli. Citata chiaramente dell'erede, del figlio. Quindi diciamolo come Vulvia: è il figlio questo, avete capito? Dopodiché, io non so come l'abbia preso Marchionne, eh. Non lo so che come, però so come l'ha presa Salvini sulla Pero Cormano, la multiplametano e Montezemolo si è rimesso in movimento, però voglio dire anche Malagò, no? Sì. Che se ne esce e dice: Montezemolo è l'italiano più conosciuto e stimato nel mondo. Sì. Allora io vi dico: non meravigliatevi se da Detroit Marchionne tirerà la volata a Boston per il 2024, perché queste sono provocazioni dagli amici di tutti i convocati. Che ci vogliamo fare? Ma con lui, Leo lo sai, io non voglio parlare di politica perché sennò entriamo in un campo minato che non ci compete. Però parliamo sai di Olimpiade. Di Olimpiade, però sai che anche in Italia qualcuno si schiererà con Marchionne, eh? Salvini ha detto: vabbè, adesso abbiamo capito che le Olimpiadi in Italia non ci saranno mai. Insomma, io credo una cosa, che noi siamo nell'epoca della grande innovazione, come ha detto Montezemolo, della rottamazione, come dice sempre Renzi, e quindi largo alle facce nuove. Tra l'altro, guarda, l'altro giorno parlavo con Briatore, no? Sì? Cosa ti ha detto? È venuta fuori anche tutta la storia lì, Conti, Svizzera, Briatore, Alonso, eccetera. Ora, Briatore non ha solo una faccia di bronzo, ma vuole anche la medaglia di bronzo, visto che parliamo d'Olimpiade, perché mi ha detto: ma io merito una medaglia perché vivendo all'estero ho portato soldi in Italia, sì, con il billionaire eccetera, io non sono un evasore fiscale, evasore chi incassa in Italia, non paga le tasse e porta via i soldi. Lui era già là tra le Isole Vergini e le Bahamas un quarto di secolo fa, quando il padre di Montezemolo di oggi si occupava di Italia 90, e quindi insomma non ha fatto nulla che diciamo così non rientri lì. Però Briatore mi diceva, al di là del discorso fiscale, ha detto: ma se vinciamo per le Olimpiadi, quanta ne avrà Montezemolo l'inaugurazione di Roma 2024? Vi siete sentiti questa domanda? sempre in nome del rinnovamento generazionale, non ve la siete fatta. Allora no, ve lo dico io, dalla multipla metano che è ripartita. Dalla multipla metano ai treni, agli aerei, adesso viaggia su macchine di lusso, è tornata a viaggiare io su macchine di lusso. Penso però che Montezemolo sia planato su Roma 2024 servendosi di un drone. Drone di Alitalia, sì, perché Marchionne, l'auto di servizio che gli ha lasciato bontà sua per un annetto, non funziona mai. Quelle code che vedete anche sulla Salerno, Reggio Calabria, è la macchina dell'avvocato. Comunque adesso, a parte tutto... Beh, non ci ha messo tanto il figlio di Montezemolo a trovare una nuova occupazione, Ma come vedi, quando si dice la flessibilità, il Jobs Act, come vi spiega sempre Barisoni a Focus Economia, funziona. Questa gente poi trova sempre il modo, in nome della flessibilità, di recuperare nuove prospettive. Quindi è un bel esempio per tutti noi italiani. Ma volevo dire, adesso al di là delle riflessioni serie, no? Sì. Insomma, potrebbe anche succedere che stiano queste Olimpiadi del 2024, perché no? Adesso onestamente voglio dire, ce ne sono dette tante, però insomma Torino 2006, io c'ero, è stata ricordata ovunque come una bella edizione dei giochi invernali. Ci ha lasciato diversi detriti. Lo so, però lì il problema è questo, e spero, parlando seriamente, che venga anche affrontato a proposito del discorso di Roma, che per moltissimo tempo il Movimento Olimpico Internazionale imponeva la realizzazione in loco dei famosi o famigerati impianti, no? Sì. Cioè è chiaro che se tu devi fare una pista di bob e slittino a Cesana Pariol, dove in Italia lo slittino l'ha praticato Zöggler, che è un mio mito personale, e quattro suoi amici, non è che puoi dire dopo l'impianto si mantiene, capisci? Certo. Allora adesso sembra che il CIO abbia modificato questa impostazione, perché l'idea di poter, diciamo così, diluire le competizioni su tutto il territorio nazionale, almeno nella prima parte, nella prima settimana dei giochi, potrebbe risparmiarci lo scempio di strutture inutili, abbandonate, certo, e quant'altro, insomma. Però bisognerà starci molto attenti su questo, sì. Io spero che il figlio di Montezemolo, come diceva Vulvia a Reeducational Channel, ne abbia la consapevolezza. Certo, però voglio rivelare ai nostri amici ascoltatori un retroscena. Allora, io ho conosciuto personalmente da vicino, ho potuto toccare Leo Turrini per la prima volta, toccare stringendone la mano, questo è chiaro, come mio mito, nel 2004 ad Atene alle Olimpiadi. Tu non ti ricorderai, perché tu eri uno molto famoso, io ero nessuno, inviato, povero inviato, io facevo il cameriere, mi ricordo che ti ho conosciuto perché ti ho servito l'uso. Cavola, io ero lì come cameriere, come stagista, quindi mi fa piacere che tu ricordi mia gentilezza al servizio. Io ricordo che tu eri già un mito, io ero nessuno, ero un povero inviato di Radio 24, a Leo Turrini, che piacere conoscerla. Ebbene, a me il ricordo di Atene è vivo per l'amicizia che ho con te, ma mi desta qualche preoccupazione per quello che è successo dopo, no? Quegli impianti li abbiamo visti tutti, l'orgoglio degli ateniesi li abbiamo visti tutti, ricordo il taxista che mi portò dall'albergo all'aeroporto l'ultimo giorno, avete visto voi, non ci credevate, eppure abbiamo fatto questa Olimpiade, abbiamo organizzato tutto, abbiamo preparato tutto, funzionava perfino il trenino che portava voi giornalisti e tutto il pueblo nei siti olimpici, non ci credeva. Però poi quello che è successo dopo lo sappiamo. Bravo, hai ragione, infatti io volevo citarti Pietro Mennea, che è stato un simbolo olimpismo italiano e mondiale, che purtroppo non c'è più, ha lasciato un grande vuoto, una persona molto intelligente al di là delle qualità che ha espresso in pista, 200 metri eccetera, e Mennea, che pure era un simbolo dell'Olimpiade, in un'intervista che gli feci mi disse: guarda che io credo che l'Olimpiade, se vuole sopravvivere, debba essere completamente ripensata. Faceva proprio l'esempio di Atene, anche con lungimiranza, prima che esplodesse tutto il crack dei conti pubblici della Grecia eccetera, sì, dicendo appunto: non esiste che chi gestisce il baraccone olimpico a livello planetario, sì, quindi il CIO, i mega sponsor, le televisioni per i diritti e così via, pretendano che una città debba spendere miliardi e miliardi di dollari o di euro, come vuoi, per ospitare un evento che deve invece essere simbolicamente, no, un'occasione di di festa, di pace e sì, tutto il resto. Me ne era addirittura arrivato a dire che chi continua così le Olimpiadi andranno a morire. Ecco, se la candidatura di Roma con il drone del figlio di Montezemolo, Flametano, Marchionne che lavora sotto banco per Boston, viene a segnare un'inversione di tendenza, allora ci sto anch'io. Sì. Se deve essere un'immane carnevalata, la solita fornace dove si buttano soldi, sperperi, corruzione e tutto il resto, allora è meglio lasciar stare. Ma credo che questa consapevolezza ce l'abbiamo tutti in Italia. Ah, sì, no? questo è chiaro, anche i detrattori, soprattutto i detrattori. Sì. Credo, poi vedremo il figlio di Montezemolo se il papà da Italia 90 gli avrà trasmesso delle utili lezioni, hai capito? Certo. Se no chiederemo una consulenza a Briatore. Tra l'altro poi notavo una cosa, no? Vai. Cosa c'è di diverso tra te, me e Briatore, a parte i conti in banca e in Svizzera? Quasi niente. No. Siamo tutti dei gran figli, no, di buona donna. No, che la moglie di Briatore ha l'età delle nostre figlie. Allora, sono le vere ingiustizie. Quindi ha vinto lui. Voglio dire, cioè, che si parte dai massimi sistemi e si arriva alla Gregoracci, capisci? Allora, noi su questo dovremmo ragionare. La figlia di Genta ha l'età della moglie di Briatore, persino la mia figlia. Queste cose non sono belle, non sono belle. Diciamo. Non sono belle. No. Senti, cosa sta succedendo a Maranello? Beh, allora, diciamo che come hai visto i primissimi Jodka, test. Jodka come sta? Alias Kimi Raikkonen, nostro idolo, il santo bevitore. Tu sai, sì, che a Jerez, in test che non valevano nulla, aveva fatto segnare il miglior tempo, no? Era un giorno una che aveva voglia. Talmente incredibile che a Maranello è venuto a nevicare per 3 giorni di fila. Non so se hai letto sui giornali, no? Sì, come no? Modena e provincia trasformate in un lembo di Finlandia, perché l'incredulità di fronte a questa super prestazione di Jodka, no? Sì. Lo Yoda alla vodka della Ferrari ha scatenato gli elementi naturali. Ora, possiamo prendere sul serio questi dati di Jerez, perché poi la prossima settimana tornano tutti in pista a Barcellona? Temo di no. Beh, io voglio pensare di sì, invece, dai. Ma dobbiamo essere. Io cosa c'è di male, scuso, ad essere ottimisti? Dai. Io mi scuso, adesso parlerò non come Varoufakis, il ministro greco, ma come Barisoni a Focus Economia. Dobbiamo essere realisti. Praticamente la Ferrari, come la Grecia, chiede il taglio del debito, no? Cioè, noi vorremmo che da subito si dicesse: cambiamo tutte le regole, questi motori che ci fanno perdere, via dalla finestra, no? Purtroppo non si può fare, perché anche qui i tedeschi, la Merkel, la Mercedes, eccetera, no? Ti dicono: no, pacta su servanda, no? Allora, in questo momento ancora, io ho guardato bene, sai, i dati cronometrici di Jerez, il motore a power unit di Stoccarda ha ancora un vantaggio notevole, sì. Sì, bisogna esserne consapevoli, però insomma pare che la Ferrari piano è come il campionato italiano, no? Cioè, levi la Juventus, e poi dietro c'è la polpa, no? C'è la parte più interessante. Poi adesso io ti seguo, ma non ho capito bene se la linea era storta della Juventus. Lascia stare la linea, lasciala stare. Chiediamo a Montezemolo, semmai. No, ma sai che la mia mamma, che ha quasi l'età di Montezemolo, mi diceva: io quando facevo le righe, lei faceva la sartina, no? Una riga è dritto e storta, come che nel calcio italiano. Ma c'è la prospettiva, però. Sì, ho capito, ma quella era già dai tempi di Giotto e Cimabue. Sai che l'ha studiata anche la figlia di Caressa a scuola, gliel'ha spiegata lui, hai sentito? No, ma Fabio ha ragione, però io non ho capito bene, insomma, la linea, no? Qui mi sembrava, sai quando si parlava una volta in politica di convergenze parallele, no? Sì. Ecco, adesso nel caso una cosa, insomma, vabbè. Ci sono le convergenze distorte. E poi alla fine vince il dottor Galliani o il geometra Galliani, a seconda di. Però adesso, se tu immagino parlerai molto, questa cosa che i cinesi si sono comprati in tutti, questa cosa qui è molto interessante, devo dire anche in prospettiva, cioè che il futuro del calcio italiano venga deciso Pechino e Canton, sì, passando per Shanghai e Pechino, e questo devo dire da interista mi dà qualche speranza, perché Toir viene da quelle aree, hai capito? Vabbè, grosso, non dagli anche tu del filippino, se no, finiamo in gattabuia insieme a Ferrero. Indonesia, capito, il sud-est asiale, eh. E chi lo sa, hai capito, potrebbe anche essere una volta buona per noi cuori nerazzurri, insomma, ecco, mettiamola così, dai, piano piano. Grazie Leo, un grandissimo abbraccio, e vi ricordo, è il figlio, attenzione, è il figlio. Non è il Montezemolo Italia 90, ma come diceva Vulvia Educational Channel, è il figlio, è Alberto Angela, non Piero Angela. Un caro saluto a tutti. Ciao Leo Turrini, ciao, ti voglio bene. Io ho sempre detto che il numero uno come allenatore, ma conoscendolo bene posso dire che è il numero uno anche come persona, una persona fantastica, una persona che non è solamente 24 ore su 24 basket, ma una persona con cui puoi parlare di tutti i problemi, che siano cose negative, che siano cose positive, quindi sicuramente questo per un giocatore è come avere, diciamo, un secondo padre. Questo era Marco Berinelli, vi confesso che era pronto da ieri, perché è notizia di ieri, quindi se ci dite non siete sul pezzo, in parte avete ragione. Berinelli ha inchiostrato, ed è molto bello, molto significativo, ha inchiostrato con un canestro allo scadere la vittoria numero 1000 di una icona come Greg Popovich, allenatore dei San Antonio Spurs, più 2 su Indiana e vittoria numero 1000 per Popovich. Da un amico all'altro, Attilio Caia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Carlo. Ciao, come stai? Bene, bene. Bene. Senti, stavamo parlando prima della candidatura di Roma, di Montezemolo, eccetera. Tu come vedresti l'Olimpiade a Roma? Poi parliamo di basket. Molto bene, perché c'è la possibilità di dare una rinfrescata a certi impianti, certe situazioni, può essere un momento di sviluppo dello sport, momento di anche di rilancio dell'economia, poi con l'impronta che ha dato Malagò, che è un genio della comunicazione, un genio anche dell'organizzazione, anche di fatto di inserire l'interessato dei problemi della corruzione negli organigrammi, quindi vuol dire che si vogliono fare le cose in un certo modo, sono l'occhi puntati di tutti, quindi sarebbe per noi una cosa molto importante. Poi verrebbero coinvolte anche altre città, quindi di conseguenza sarebbe una cosa ottima proprio per tutta l'Italia, un segnale, una botta di grande risveglio. Senti Attilio, prima del basket un'altra cosa, io ti ho chiamato anche come tecnico federale, no? Lavoro nel settore squadre nazionali da molti anni, eccetera, e volevo una tua opinione su Antonio Conte e sulle sue necessità di spazi, di stage, sui suoi, qualcuno dice, capricci. No, non sono assolutamente capricci, è il suo modo di lavorare, il suo metodo, il suo sistema. Quando tu sposi lui, quando tu prendi lui, sai quello che lui fa. Lui è, diciamo, un po' come una, senza che sia offensivo per nessuno, un po' una riedizione di Sacchi, cioè un allenatore che basa molto sulla ripetizione del movimento, del gesto, di tante volte magari situazioni contro zero per trovare proprio la perfezione del movimento. È chiaro che per avere questo devi la ripetizione e devi avere atleti a disposizione. Però se sei allenatore della nazionale puoi chiedere tutto questo, ti devi accontentare degli spazi che ti danno, perché quegli spazi valgono per tutti, non valgono solo per l'Italia. È proprio complicato, perché quando poi sei dall'altra parte della barricata ti dà un po' fastidio, c'è qualche problema, trovare una via di mezzo, e penso che magari la via di mezzo possa essere più che gli stage durante l'anno, cercare magari di avere più tempo a disposizione alla fine del campionato, quindi cercare di ridurre, di comprimere un po' le date della Coppa Italia e quindi avere più spazio alla fine, in modo tale, perché lui è un allenatore che ha bisogno del tempo e ha bisogno del sistema. Però è un problema a monte, quando lo sposi sai com'è, e lui lo stesso quando accetta sa di quello che sì. I problemi che ci possono essere, cosa che nella pallacanestro succede, però si basa essenzialmente sul sacrificio dei giocatori, cioè gli dicono: voi volete venire all'europeo, rinunciate alle vacanze, facciamo 40 giorni di preparazione. Sì, forse anche 50, però le date per fortuna per noi sono diverse, nel senso che da noi l'attività comincia, pianigiani, attorno al 20 di luglio, il campionato finisce al 20-25 di giugno, quindi chi fa l'attività in Italia, che arriva a gara 7, ha 25 giorni di riposo, e chi arriva dall'NBA, a parte quelli che magari possono fare la finale, hanno anche 2 mesi di riposo, sì, quindi certo, insomma certo. Le date qui in C sono diverse, e per uno sportivo 25 giorni di pausa è assolutamente una cosa che va bene. Certo, Attilio, per chiudere ovviamente una pennellata di basket, nel calcio diciamo un campionato non ce l'abbiamo più, nella pallacanestro mi pare neanche, poi no, possiamo parlare neanche. Di coppe europee, però non mi sembra che esista un campionato o esista un dubbio sull'esito finale. No, su, hai ragione perfettamente, è l'unico dubbio diciamo che è da vedere chi sarà la sfidante. Sì. Chi sarà la sfidante di Milano, chi è che proverà a giocarsela contro Milano, dopodiché sai, dicevo, qualcuno dice, ma anche l'anno scorso si pensava la stessa cosa, però Siena aveva una struttura tecnica di giocatori e hanno dimostrato poi soprattutto a livello perimetrale, a livello degli esterni, da Green, da Haynes, quello che hanno fatto a Carter, a Jennings, quello che poi stanno facendo adesso negli altri campionati, di poter essere competitiva. Quest'anno le squadre da Sassari a Reggio Emilia a Venezia non hanno quella stessa competitività sul perimetro, non hanno quei giocatori di talento tecnico e fisico che possano competere con Milano, perché soprattutto poi alla fine quello che Milano paga in Europa, cioè non è competitiva a livello fisico, in Italia non sono le squadre che sono competitive a livello fisico, certo, con Milano. Grazie Attilio, è stato un piacere. Buona giornata, ti abbraccio, come sempre. Grazie Attilio, grazie ad Attilio Caia. Noi chiudiamo qui, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Daniele Buonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Cuore Denari è una grandissima situazione che potrebbe essere molto molto positiva per me, per la mia famiglia, non ci sposteremo di molto, ma io in Italia non voglio, non me la sento di indossare altre trasmissioni.